giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Salgono a 5 gli indagati per la morte di Daniel Taffa, il 22enne di Vajont, morto alcuni giorni fa in fabbrica a Maniago. Autopsia per il giovane triestino morto in albergo a Bangkok, il padre è già volato in Thailandia. PMI, obbligo di assicurazione anticalamità, bene la proroga per le associazioni, lo strumento non sia penalizzante. Nautica da diporto in mostra a Lignano, sostegno al settore dalla nuova legge regionale, bandi entro l'anno. Calcio in Serie C, Triestina a Rocco contro la Feralpi Salò, le assenze complicano la corsa a salvezza degli alabardati. Entra in vigore l'ora legale, lancette dell'orologio avanti di un'ora per Terna, un risparmio di 100 milioni di euro. Sono le 12:31, buongiorno di nuovo da Lara Zani e Rita Amicoli. In apertura la notizia che sono saliti a 5 gli indagati nell'inchiesta per la morte di Daniel Taffa, il 22enne di Vajont, trafitto da una scheggia in un incidente sul lavoro verificatosi martedì in una fabbrica di Maniago. C'è il quinto indagato, è il responsabile interno del servizio prevenzione infortuni dell'azienda, un uomo residente a Sequals. Gli altri indagati sono il proprietario dell'azienda, il direttore dello stabilimento che è anche responsabile per la sicurezza, il perito che aveva certificato gli impianti produttivi e la professionista che ha validato per ultima la regolare operatività della macchina in cui si è verificato l'incidente. E prima di parlarvi della morte del giovanissimo triestino trovato senza vita in un albergo a Bangkok, parliamo di giustizia e dei suoi nodi. Se ne è discusso a Palma Nova nel corso del congresso regionale delle Camere Penali. Tra problemi concreti della giustizia e riforma costituzionale politica, rappresentanti di avvocatura e magistratura si sono confrontati in maniera aperta a Palma Nova. La separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero è stato uno dei temi al centro del dibattito del congresso regionale delle Camere Penali. In un video realizzato per l'evento, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha difeso la riforma. Si sentono queste petulanti litanie che la separazione delle carriere vorrebbe portare alla fine il pubblico ministero sotto il controllo dell'esecutivo, per non parlare di quelli che dicono che si tratta di favori alle mafie e alla criminalità organizzata, cose che non solo indignano ma fanno sorridere, sono delle stupidaggini colossali che non meriterebbero nemmeno di essere commentate. Secondo la responsabile giustizia del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, le priorità sono altre. Servono più assunzioni, soprattutto di personale amministrativo che ormai non c'è negli uffici, serve la stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo, serve soprattutto che ci sia un processo telematico che funzioni e oggi le app non funzionano. Sulla separazione delle carriere, magistrati e avvocati hanno posizioni diverse, con i primi sostanzialmente favorevoli e i secondi contrari. Ma su una cosa convergono, c'è un'eccessiva produzione di riforme e di norme, in particolare penali, che creano confusione. Dal palco si è parlato di populismo critico, per esempio verso la proposta del reato di femminicidio, il presidente della Camera Penale Friulana, Raffaele Conte, un crimine che sarebbe punito in maniera più pesante rispetto all'omicidio. Mi diceva il professor Amati, che è professore di diritto penale di Udine, che i suoi studenti, quando lui ha letto la norma, hanno detto ma è incostituzionale, gli hanno detto tutti quanti, studenti quindi che non sono laureati, ed è realmente così. Sono stati poi sollevati altri problemi come gli intoppi del processo penale telematico, il sovraffollamento delle carceri e la grave carenza di personale amministrativo nei tribunali del Friuli Venezia Giulia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Trovato morto nella sua stanza d'albergo a Bangkok, un decesso che nulla ha a che vedere con il devastante terremoto che ha sconvolto il sud-est asiatico, quello del 24enne triestino Matteo Babici. Il padre è riuscito a raggiungere in queste ore la Thailandia. Solo l'autopsia potrà chiarire la causa della morte di Matteo Babici, deceduto in una stanza d'albergo a Bangkok che condivideva con un amico. Fonti del Ministero degli Esteri mantengono il riserbo sulla vicenda. Il padre Roberto è volato in Thailandia per seguire il rientro della salma ed è assistito dall'ambasciata. Il 24enne era residente a Opicina e fino a pochi mesi fa lavorava in un piccolo market a Basovizza sul Carso Triestino, dove non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Lontano dal microfono alcuni lo ricordano come un ragazzo molto cortese e sorridente. Ma Matteo lo scorso dicembre decide di trasferirsi in Thailandia a Chiang Mai, la più grande città del nord del paese con 1.200.000 abitanti, meta turistica dove si è ben avvertito il terremoto nel vicino Myanmar. Nei primi momenti si pensava fosse stato coinvolto nel sisma, invece si trovava a 700 km a sud nella capitale Bangkok. Tra le passioni che inseguiva anche la MMA, arte marziale mista diffusissima nel paese asiatico nella quale dalle foto postate sui social si cimentava, e poi la passione per i viaggi e l'avventura. L'ultimo post è datato 15 marzo, una foto dal Chiang Mai Boxing Stadium. 4 anni fa ha pubblicato su YouTube anche un video musicale rap con lo pseudonimo Miss B Dream dal titolo Quei giorni. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo con le notizie del giornale radio. Scadenza posticipata, le imprese medie e piccole avranno ancora qualche mese di tempo per assicurarsi contro i danni causati da eventi estremi e calamità naturali. Vantaggi e rischi, secondo le associazioni del settore. La proroga, una cosa giusta. Artigiani e piccole e medie imprese guardano con favore alla decisione del governo di rimandare l'obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze contro le calamità naturali. Dalla misura sono state escluse le grandi imprese, per le quali vige solo uno stop di 3 mesi per le sanzioni, mentre quelle agricole erano state lasciate fuori fin dal principio. Se l'obbligo, dopo uno sconcerto iniziale, è stato recepito in modo positivo come assunzione di responsabilità e messa in sicurezza delle proprie attività, le perplessità riguardano le modalità con cui finire le polizze e gli eventuali ristori. Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. La grande discussione sta proprio all'interno del valore delle attrezzature e delle modalità di ristoro nell'ipotesi. Intanto credo che l'assicurazione dovrà partire su un valore a nuovo. Secondariamente, come avverranno i ristori, sperando che la catastrofe non avvenga, perché il miglior ristoro è che queste cose non succedano. Secondo Michele Filippi, vicepresidente di Confapi del Friuli Venezia Giulia, la questione è rendere questo nuovo strumento che nasce chiaro e non penalizzante per le imprese. Tra le questioni da definire, continua, figurano gli effetti sulle domande di contributi, sovvenzioni, sostegni finanziari pubblici già richiesti e futuri, con il rischio che dal mancato rispetto dell'obbligo possa derivare l'esclusione dalle agevolazioni pubbliche. Un altro aspetto, sottolinea, è il premio assicurativo. Per una regione ad alto rischio sismico come la nostra, potrebbe rappresentare un fattore di svantaggio per l'impresa, soprattutto a confronto con aziende dislocate in altre zone d'Italia. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Lignano, primo fine settimana per Boat Show, fiera della piccola nautica da diporto dell'Alto Adriatico. Questa mattina anche un convegno sulla nuova legge regionale del settore. 7° Boat Show a Lignano Sabbia d'Oro, il primo dopo l'entrata in vigore il 1 gennaio della nuova legge regionale sulla nautica. Alcune novità del testo sono state illustrate prima del taglio del nastro della fiera di riferimento per la piccola nautica da diporto dell'Alto Adriatico, organizzata dall'Associazione Noi Operatori di Aprile Marittima. Sono oltre 15.000 i posti barca in 25 marine lungo 96 km di costa, una concentrazione che non ha pari in Italia, garantiscono lavoro a circa 2.000 persone. Il testo di legge, definito dall'assessore regionale Sergio Midiobini semplice, è composto da 18 articoli. Si sta completando l'iter per i decreti attuativi. I bandi arriveranno entro la seconda metà dell'anno. Bandi pilota anche per vedere la risposta del comparto. Dotazione iniziale da 2,7 milioni di euro per il biennio, incrementabile. Prevede tra le varie cose incentivi per ammodernare le darsene, una promozione unica alle fiere di settore, bonus per i privati per le rimesse a nuovo, per cambiare la motorizzazione, per le demolizioni, così da aiutare quei comuni che si ritrovano i piccoli natanti senza targa abbandonati. Essenziale per Assonautica Pordenone Udine e per il suo presidente Carlo Conti il tavolo permanente di lavoro istituito con la legge, punto di confronto per continuare ad alimentare il settore di idee e progetti. A dicembre la regione ha stanziato inoltre 3,5 milioni di euro, suddivisi in 3 annualità incrementabili, per interventi di riqualificazione della darsena Porto Vecchio di Lignano, 429 posti barca, dove si tiene il boat show. Il proprietario, Promotorismo FVG, è subentrato all'ISAGEST nella gestione diretta. Previsti interventi sul ponte, sulla passeggiata, saranno creati biglietteria, ristorante e bar. Ricordiamo da ultimo che il boat show è aperto per 2 fine settimana consecutivi. Questo è quello del 5 e 6 aprile alla darsena Porto Vecchio di Lignano Sabbia d'Oro. Lignano Sabbia d'Oro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E oggi e domani c'è anche un altro appuntamento con la nautica di seconda mano ad Aprilia Marittima, 2000 imbarcazioni all'ormeggio e a terra per il secondo fine settimana della 15ª edizione di Porte Aperte all'usato, imbarcazioni dai 6 ai 20 metri, alcune delle quali già esposte in autunno a Nautilia, ora riproposte per la vendita e visitabili anche internamente, ingresso libero. E ora uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste e Udine 14 gradi, a Pordenone e Gorizia 13 gradi e mezzo, a Tolmezzo 12 gradi, Forni di Sopra 8 gradi e mezzo, Tarvisio 7, Piancavallo e Sappada 6, sul Monte Zoncolan 2 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 0 gradi, a Grado e Lignano 12 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA, cielo da nuvoloso a coperto, in giornata soffierà vento moderato da nord o nord-est in quota, anche dal pomeriggio sul Carso e a Trieste. Non si esclude qualche raffica più sostenuta. Domani cielo da nuvoloso a coperto, piogge sparse intermittenti ma che dovrebbero attenuarsi. In giornata soffierà vento moderato da nord o nord-est in quota e non si escludono raffiche più sostenute. Giornata clou per il Festival Letterario Geografie di Monfalcone. Questa mattina Matteo Bussola e il disagio giovanile, nel pomeriggio il giornalista Massimo Franco e il fantasma di Hammamet. Fine settimana clou per il Festival Geografie di Monfalcone che si concluderà nella giornata di domani. Tra gli appuntamenti della mattinata, la neve in fondo al mare con il romanziere Matteo Bussola, una storia toccante che racconta quel che si prova davanti al dolore di un figlio ma anche la luce dell'essere genitori. Un libro che nasce, spiega l'autore, per trovare un perché al crescere dei fenomeni di disagio mentale infantile, autolesionismo e disturbi alimentari tra ragazze e ragazzi. Una vera e propria epidemia psichiatrica, la chiama Bussola, la cui onda è arrivata dopo l'altra epidemia, quella dei corpi e non delle menti, quella del Covid. Inaugurata poi in mattinata la mostra Monfalcone tra terra e mare al Museo della Cantieristica di Panzano, curata dalla Società Friulana di Archeologia. In programma nelle prossime ore altri appuntamenti di grande richiamo: in Piazza della Repubblica alle 15:30 il giornalista del Corriere della Sera Massimo Franco e il fantasma di Hammamet, perché l'ombra di Bettino Craxi incombe ancora sull'Italia di oggi. Il politologo Vittorio Emanuele Parsi e la giornalista Tiziana Panella con La vita due volte alle 17, poi alle 18 una vicenda particolarmente sentita qui a Monfalcone, Amianto, una storia operaia con Alberto Prunetti. Alla Biblioteca Comunale la disegnatrice Nicoletta Costa porta il suo personaggio per bambini, Giulio Coniglio e gli amici lontani, alle ore 16, mentre stasera al Teatro Comunale alle 21 Mario Giordano porta in scena Dynasty, il crollo delle grandi dinastie imprenditoriali italiane che avevano rappresentato un modello di crescita e di sviluppo per il sistema paese. Monfalcone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti: telefonano che c'è un incendio su una nave, spettacolo di denuncia sulla sicurezza dei lavoratori di Leonardo Lucchetti ad Hangar Teatri a Trieste alle 20:30. Muiziu in concerto, anteprima speciale di Sesto Unplugged e Far East Film Festival. Alle 19 al Teatro San Giorgio di Udine, la polistrumentista e produttrice britannica, ma originaria di Hong Kong. Alle 20:30 nel Salone della Barchessa di Villa Correr Dolfino a Porcia, il concerto Vocalize Trio e Francesco Facca. Al Teatro Pasolini di Cervignano la commedia romantica Follemente di Paolo Genovese alle 18 e alle 20:30. Colombre e Maria Antonietta all'SOS Music di Socchieve inaugurano la nuova edizione di Casa Mia, progetto di residenza che porta in Carnia artisti dall'Italia e dall'estero alle 18. All'indomani del gravissimo terremoto lungo la faglia Sagaing nel sud-est asiatico, a Trieste va in scena oggi Sisma, uno spettacolo innovativo che fonde divulgazione scientifica e performance teatrale per esplorare il fenomeno dei terremoti, ideato da Daniele Tenze e Alberto Rizzo. Sisma è uno stand-up show che porta sul palco la scienza attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente. Alle 19:30 nell'aula magna della sezione di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste. Daniele Tenze ci ha presentato lo spettacolo. Sisma è uno spettacolo di divulgazione scientifica, uno stand-up show, è stato definito così, in cui si parla di concetti di scienze della Terra, di geoscienze, in particolare legati ai terremoti, Nella prima parte appunto vengono trattate le tappe un po' evolutive del nostro pianeta, per poi lentamente parlare del nostro territorio, del Friuli e dell'Italia, e quindi anche un po' del Mediterraneo, citando alcuni dei terremoti più importanti dal punto di vista storico e geologico, sia della nostra area, della regione Friuli-Venezia Giulia, ma anche dell'Italia. Lo spettacolo si svolge nella prima parte, in cui ci sono io che narro e spiego diversi concetti usando diverse strategie performative, che siano un po' comico tendenzialmente, un po' da teatro di narrazione, un po' teatro civile, per poi lentamente sfumare in una sorta di installazione audiovisuale in cui i laser proiettati da Alberto Rizzo ripropongono i segnali sismologici di questi terremoti che abbiamo scelto, in cui i segnali sono stati audificati, quindi i sismogrammi sono stati resi udibili e visibili grazie al laser. Da cosa è nata l'idea? L'idea è nata dal fatto che da tanti anni mi occupo di comunicazione di queste tematiche. È nata assieme all'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, dove da quasi 10 anni ormai tengo laboratori per le scuole su appunto i geoscienze e i terremoti. L'Ecomuseo poi, conoscendo il mio percorso sia di divulgatore scientifico ma anche quello artistico, mi ha proposto di realizzare uno spettacolo, in questo caso un monologo sul concetto di terremoto, per portare in giro queste tematiche. Ecco. Nello spazio Forum di Museo Lez a Trieste, presentazione di Chiasso Vezzano, Una casa e una famiglia temeraria in tempo di guerra, l'ultimo libro dello scrittore giornalista Piero Dorfles, figlio della triestina Alma Fra Giacomo Dorfles, donna di scena e fondatrice negli anni 50 della Cantina, spazio teatrale interamente gestito da scrittrici e artiste. Alla libreria Lovat di Trieste alle 18 Camille Peretti presenta La sconosciuta del ritratto. Carni a Berlino, giochi di luce, ombre e linee, mostra di fotografie di Mauro Crocia, Palazzo Frisacco di Tolmezzo, inaugurazione alle 17, visitabile fino a domenica 11 maggio, evento nell'ambito del calendario per il 3 aprile, festa della patria del Friuli. Nella Galleria Rettori Tribio di Trieste si inaugura la mostra Una naturale bellezza della pittrice Laura Fabbro alle 18. Il Club Alpino Giovanile invita i ragazzi, in particolare quelli tra gli 8 e i 17 anni, alla serata informativa che si terrà alle 18 nella sala consiliare del comune di Amaro, nell'ambito del progetto Mi illumino di meno, per avvicinarsi al mondo della montagna e scoprire come vivere la natura in modo responsabile. Al Visionario di Udine alle 21 la proiezione di Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino tratto dal romanzo di William Burroughs. In diretta streaming il regista e il protagonista del film, Daniel Craig, anteprima e introduzione streaming anche a Cinema Zero di Pordenone. Ora allo sport. Per il calcio di Serie C, Triestina in campo questo pomeriggio a Rocco contro la Feralpi Salò, terza in classifica. 4 le assenze importanti nella formazione alabardata che complicano la corsa a salvezza, fischio d'inizio alle 15. Dopo la pausa per le nazionali, nel massimo campionato l'Udinese sarà invece impegnata domani a Milano alle 18 contro l'Inter sull'erba del Meazza. Inter che secondo la stampa sportiva sarebbe interessata all'attaccante bianconero Lucca. Ieri mister Rugnai ci ha comunicato che Tovena anche domani non ci sarà. Per il punto sulla situazione bianconera abbiamo sentito Lele Adani, opinionista di Rai Sport. Adani, in questa stagione l'Udinese ha già raggiunto anticipatamente la salvezza, si guardava l'Europa, poi c'è stato il brutto scivolone con il Verona, ora arriva l'Inter. È vero, però al di là dell'ultimo, come hai chiamato tu, scivolone in casa, io credo che il campionato è molto buono. Secondo me si è visto un bel gioco, una squadra compatta, anche giocatori nuovi che hanno risposto secondo me alle aspettative, altri hanno stupito, altri si sono confermati, quindi una volta che l'obiettivo è stato raggiunto e per una volta abbondantemente in anticipo, credo che l'Udinese possa cercare di togliersi delle soddisfazioni. La scommessa di Runac è stata vinta. È un allenatore secondo me molto preparato, molto empatico con la squadra, un allenatore magari partito con qualche scetticismo, però alla fine con il lavoro, con le idee, con la sua esperienza anche se poco nota, con la sua capacità di capire subito il calcio italiano e soprattutto di valorizzare tanti calciatori anche che provengono da paesi e campionati diversi. Sono 30 anni consecutivi che l'Udinese gioca in Serie A e la società ha dichiarato che il ritorno a giocare in Europa non è così poi lontano. L'Udinese sa quello che vuole, ha una proprietà solida, gente che capisce di calcio, un ambiente che permette di lavorare sempre con l'idea di raggiungere i propri obiettivi e valorizzare il talento scegliendolo ovunque. Una volta che hai la tranquillità dell'obiettivo primario che è la salvezza, io credo che non bisogna porre limiti alla crescita e alle ambizioni. Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. Altri appuntamenti di sport: pallanuoto di A1, la Bardati in trasferta contro il Telimar Palermo alle 15, Orchette sul campo della Vela Ancona alle 18. Basket A2, Futurosa Trieste nel penultimo appuntamento casalingo della stagione regolare contro Ancona alle 18. Per il basket in carrozzina di Serie B, la Castelvecchio Gradisca gioca in casa con il Basket Vicenza, squadra ai vertici della classifica. Solo una vittoria consentirà a Gradisca di raggiungere i play-off alle 17 al Palamacoratti. Presentati a Pordenone i tornei giovanili di calcio e volley Cornacchi e Galdini dal 18 al 21 aprile porteranno in città oltre 5.000 atleti e atlete da tutto il mondo. Oltre 5.000 partecipanti da 29 nazioni. Dal 18 al 21 aprile Pordenone si prepara ad accogliere i giovani e atleti provenienti da tutto il mondo per i tornei internazionali di calcio giovanile Gallini e di volley Cornacchia e le atlete del calcio femminile Donna Cup. Per la prima volta quest'anno anche con squadre dal Porto Rico per la pallavolo e dal Messico per il calcio. Agli ultimi europei hanno preso parte 74 atleti delle tre competizioni. Tiziano Cornacchia, organizzatore dei tornei. Mi aspetto, come al solito, di caricare di entusiasmo tutta la provincia, perché non verrà fatta solo a Pordenone, perché vedere oltre 5.000 giovani partecipare con loro entusiasmo è una cosa che carica tutti quanti noi, ma veramente è una cosa che entusiasma e commuove, e io spero che tutta Pordenone possa vivere e caricarsi di questo entusiasmo che ci trasmetteranno i giovani. Un grande evento per la città e per il Friuli occidentale, che ha già riempito 70 alberghi della provincia con oltre 3.800 prenotazioni. Nei 4 giorni saranno distribuiti al quartier generale in fiera più di 30.000 pasti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora le rubriche della domenica sulla terza rete televisiva Rai alle 11.05 e sul primo canale radiofonico alle 6.05 del mattino una nuova puntata della rubrica Est-Ovest. In Turchia la crisi scatenata dall'arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu potrebbe incrinare il potere di Erdogan. Della Russia non ci si può affidare. Il presidente lituano Gitana Nauseda parla ai microfoni di Est-Ovest. Il potere di Putin si sfarinerà solo con l'invecchiamento del leader del Cremlino. Questo è il giudizio del dissidente Baunov. A Cipro c'è una grande concentrazione di start-up che porta il paese ai vertici degli indici dell'innovazione tecnologica. I vietnamiti in Slovacchia, una minoranza immigrata negli anni del comunismo e molto integrata nella società slovacca. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 minuti su Rai 3. E domani, dopo il giornale radio della domenica, torna Vita nei Campi, la trasmissione dedicata ad agricoltura ed enogastronomia. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura la realtà dell'Associazione Nazionale degli Assaggiatori di Grappa e Acquaviti. A seguire la storia di Angelo Floramo ci parla ancora degli odori e profumi della campagna, le radici e il primo e insostituibile strumento per la lavorazione dei terreni. E ancora assaggio radiofonico per il vino bandiera del Carso, la Vitofska, nella rubrica dei sommelier, seconda puntata dedicata dedicata al frigorifero, elettrodomestico essenziale per la conservazione dei cibi, nello spazio dei fiori il fragrantissimo eliotropo, pianta dall'aroma dolce. In conclusione, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere ricordiamo che questa notte ritorna in vigore l'ora legale, le lancette andranno spostate un'ora in avanti per convenzione alle 2 di notte, che diventeranno dunque le 3. L'ora solare tornerà poi nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, secondo Terna, società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale. L'Italia risparmierà circa 100 milioni di euro grazie a una riduzione dei consumi di 330 milioni di kilowattora, evitando l'emissione di 160.000 tonnellate di CO2. In regia Bruno Montevecchi e Mauro Ciccarelli. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.